mercati. Ora per Vidal, libero di poter alzare la testa, mettere questo pallone in mezzo, Chiellini, Cragno ancora e poi Tevez, fortissimamente Tevez, dopo tre minuti la Juve già in vantaggio con il decimo gol in campionato. Pallone proprio per Pereira, al limite Vidal che la piazza, che gol di Vidal al quindicesimo. A cercare Llorente, pallone buono per Llorente in aria, Llorente prova adesso a girarsi, Llorente vede il Cagliari e poi segna Llorente. Ho la fortuna di allenare un gruppo che ha voglia di vincere e voglia continuare a stupire. Dopo tre anni vuol fare ancora un'impresa cercando di vincere il quarto campionato. Non sarà facile perché la Roma le ha attaccate, quindi sarà un duello fino alla fine. E poi far bene in Champions, io ho molta fiducia in questa squadra perché credo che possa far molto bene anche in Champions League. Intanto la Juventus con i tre di ieri ha chiuso l'anno solare, ha chiuso il 2014 con 95 punti in 12 mesi, nessuno aveva mai fatto così tanti punti nella storia del calcio italiano in un anno solare. Cagliari ieri sera c'era per la Gazzetta dello Sport, ha raccolto interviste e testimonianze, c'era per la Gazzetta dello Sport Francesco Bibi Belluzzi. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno. Come stai? Tu convocato anch'io oggi, insomma, quindi sì. Ho sentito le parole di Allegri che mi ha divertito molto il fatto, insomma, quando ha detto che l'avevano pensionato per alcuni mesi, sì. In effetti era stato un po' così, però poi l'hanno riabilitato alla grande, ecco. Senti, il grandissimo maestro Beppe Viola, indimenticato, si era inventato una cosa meravigliosa che era l'ufficio facce. Vorrei farlo con te. Com'era la faccia di Allegri ieri sera? Ma la faccia di Allegri dopo il 2-0 era molto infastidita, infatti è quello che gli ho chiesto perché ho notato più volte la sua espressione di rabbia in panchina, qualche pugno sbattuto, insomma, e poi decisamente più rilassata e comunque contento di aver chiuso benissimo quest'anno solare per quel che riguarda il campionato e pronto a giocarsi la battaglia di Doha dove la Juve è arrivata già stanotte, insomma. Sì, e la faccia di Zeman invece? La solita. La solita, direi con un sorriso finale quando poi personalmente, insomma, gli abbiamo fatto gli auguri. Ho molta stima di Zeman e credo e spero, adesso ero in aereo quindi non so gli sviluppi ultimi, ma spero che la soluzione non sia quella di mandarli a Zeman perché sarebbe in questo momento forse il male minore maggiore, soprattutto se a inizio anno hai creduto in un tipo di, si usa spesso a sproposito sta parola progetto, però se hai creduto in questo bisogna sicuramente fare dei correttivi a livello di squadra, però non si può dare la colpa a uno che lavora ancora con una passione, con una competenza, con un'onestà morale, intellettuale che davvero in questo mondo sembra spesso sparita. Ieri sera, ieri sera ha parlato così, lo facciamo sentire un attimo, Francesco. Per me abbiamo fatto buona figura, nel senso che sicuramente Buffon ha giocato più di Cragno. Beh, insomma, se il Cagliari si accontenta di questo, non è stato esonerato Zeman, non ci sono notizie in questo senso, c'è una sua dichiarazione, non so se la partita di ritorno a Torino sarò ancora su questa panchina, è chiaro che 12 punti sono davvero pochi. Se il Cagliari si salva, insomma, l'idea di Zeman può essere premiante, diciamo così. Però a questo punto bisogna vedere, perché è una squadra che non ha mai vinto in casa, una squadra che anche ieri sera ha aperto istantaneamente tutte le porte a una Juventus che non, in questo momento non scoppiava di salute, Bibi. Sì, non scoppiava di salute, ma la qualità di Tevez, Vidal, Pirlo, Llorente, Marchisio, Buffon e Mixtreiner, certo. È troppo superiore a quella di Balzano, Cepitelli, Benedetti e via, e tanti giovani un po' impauriti anche, che quindi vanno a giocare una partita. Zeman ha detto che ha sbagliato due partite e mezzo il Cagliari, io gli do assolutamente ragione in questo, anche perché le ho viste quasi sempre partite del Cagliari. e devo dire che i punti non lo premiano, cioè la classifica non lo premia, perché per dire, io seguo spesso l'Udinese, l'Udinese ha 21 punti, vi assicuro che gioca molto peggio del Cagliari, e che ha avuto un'involuzione in una fase della partita con la Fiorentina e nella partita col Chievo. Queste sono state le partite sbagliate, ma il Cagliari visto con l'Atalanta, partita persa in casa se non sbaglio 2-1, era un Cagliari ma veramente di ottimo livello, quindi ripeto, per la squadra che ha e che gioca da più di un mese senza l'unico vero attaccante Sau, infortunato, quindi che non vuole essere una scusante per Zeman, però comunque è l'unico vero punto di riferimento che ha in attacco e giocatore che sa interpretare perfettamente quel che lui chiede. Sì, poi sì, chiede cose semplicissime, basterebbe farle. E no, ma sai, Zeman ha bisogno di gente che lo segua in maniera quasi insomma a prioristica, no? Ha bisogno di gente che lo segua in maniera cieca, che abbia fede, no, più che fiducia, fede in lui. Non so se a Cagliari queste condizioni ci sono, se non ci sono sarebbe meglio, come dicono a Bologna, darla su, perché rischi soltanto di peggiorare la situazione. Torniamo alle facce, quella di Tevez com'era? Ma sicuramente felice, perché la fascia ha ritrovato il gol che gli mancava dal 26 novembre dalla gara col Malmo, l'ha ritrovato, e per un attaccante questo è importante, come lo è stato per tutto il reparto, perché lo ha ritrovato anche Llorente, e quindi da quel punto di vista la Juve è rinfrancata. Io credo che quella, come si diceva ai tempi delle hit musicali, sia la coppia regina, perché Morata mi sembra ancora un gradino sotto, nonostante abbia della qualità sicuramente, anche forse superiore a quella di Llorente dal punto di vista balistico, però Llorente mi sembra comunque ancora più scafato, quindi credo che sarà questa la coppia che vedremo in Supercoppa, così come penso ovviamente rivedremo Pogba e rivedremo Bonucci in formazione. Il sopracitato Allegri invece Morata lo vede pochino, anche ieri l'ho fatto entrare a partita chiusa, non evidentemente non lo convince la combinazione con Tevez, che rimane comunque insieme a Pirlo e a Buffon il capogiocatore della Juventus. Sicuramente la Juve ha ritrovato questa felicità del successo, poi bisognerà vedere dopo la sosta a che punto sarà la squadra. Come diceva qualcuno, questa squadra vive molto ancora dell'effetto Conte e di tutto quel che è, e Allegri è stato bravo comunque a garantire la voglia di continuità, la voglia di vittoria che questa squadra ancora ha, e a inserire secondo me molto bene Pereira, che è un jolly di assoluta importanza in questa squadra. Gran bel giocatore. Ascolta, c'è qualche speranza che torni Balotelli magari nel periodo natalizio? Oggi Ferrero ha aperto le porte della Sampdoria a Super Mario, ma se decidesse di venire qui in un ambiente che lo protegge, eccetera eccetera, potrebbe ritrovarsi. La sensazione è che la sua avventura a Liverpool sia agli sgoccioli, e d'altra parte l'extracalcio è piuttosto noioso, tolta un po' di cronaca romana in questa prima metà di campionato, eh. Sì, assolutamente, sta calcio ne vediamo poco, io che mi divertivo tanto col gossip ne vedo poco, anche se comunque andando un po' a scandagliare la persona di Vidal scopriremo secondo me delle cose molto divertenti, molto più di quelle che fa Balotelli, vi assicuro. Sì, credo che Vidal sia in assoluto il numero possa uno, possa regalare anche emozioni, è che Balotelli magari gioca con le freccette e fa le notizie, fa notizia alla Juve, si copre tutto con molta miglior gestione, e quindi però Vidal è un personaggio veramente straordinario, per averlo per un'ora con me e per parlarci veramente forse mai di calcio, ma chiedergli di tutto. Adesso si sposa, come avete letto, con un rito religioso peraltro. Sì, eh? Però sì, insomma, diciamo che uno che la vita se la gode, ecco. Sì, ma in generale insomma non è come Jessica Rabbit, ma mi dipingono così in realtà. Esatto. Quanto riguarda Balotelli, con Ferrero sarebbe una coppia straordinaria. No, sarebbe esplosivo. Le possibilità che Balotelli rimanga a Liverpool di quelle che Ferrero rimanga alla Samp per molti mesi, perché anche lì ci sono delle voci un po' discordanti, però finora il Ferrero ha dato una visione molto, molto curiosa e molto divertente della Samp, e finché rimane godiamo. Meno male che c'è. Per il momento meno male che c'è, almeno quattro pensate ce ne facciamo, Bibi, grazie. Esatto. Ciao. Grazie. Grazie a voi, tanti auguri. Tanti auguri Francesco Velluzzi. 800 24 00 24, numero verde, Marco Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo chiedere due cose, che è un po' di tempo che io volevo chiedere, magari anche a Pierluigi Pardo, che purtroppo sì. Oggi no, arriva dopo, arriva ecco. dopo le 15. Va bene, io sono un tifoso juventino. L'altro giorno, vedendo Juve-Samp, siccome sono leggermente daltonico, non esageratamente, però faccio una fatica bestia quando le partite stanno, cioè i giocatori hanno le maglie molto simili, cioè la Juve ha la maglia blu scuro e la Samp la maglia rosso scuro. E non capisco perché non si possa giocare con le maglie originali e bisogna complicare la vita in questo modo a chi magari ha più difficoltà a vedere i colori delle proprie squadre. Ma a parte questo, è anche un discorso delle regie televisive. Io vedo sempre 1000 replay, appena un giocatore fa qualcosa viene inquadrato per 10 secondi, magari la palla è già a metà campo. Il calcio d'angolo, cioè la ripresa fino all'ultimo, quando rinquadrano diciamo l'area di rigore non si ha neanche il tempo di vedere come sono disposti i giocatori. A volte insomma mi sembra un po' troppo frenetica quello, sì, che c'è un'eccessiva ricerca del dettaglio, lei dice. Esatto, che ogni tanto va bene, ci mancherebbe, però magari mentre giocano sarebbe il caso di vedere dov'è la palla. Io e sono d'accordo, sono come d'accordo. Si muove la squadra, ecco, perché si perde il feeling della partita, no? Sì, tra letture dei labiali, tra inquadrature molto ravvicinate, esatto. Ricerca appunto del dettaglio, magari anche in maniera un po' maliziosa. Quanto riguarda le magliette, cosa vuole che le dica? Credo sia una battaglia perduta. Lo so. A me piaceva la vecchia regola dell'NBA, cioè maglia, due maglie, maglia chiara in casa, scura in trasferta, no? Quindi quella regola a me, che c'era nel basket americano, a me piaceva. Esattamente, grazie a lei. Adesso il signor marketing esige 1000 varianti, 1000 variabili delle magliette. Riconosciamo, allora vediamo il Cesena che sembra il Palermo, vediamo la Juventus in verde evidenziatore, così come qualche volta al Parma, ne vediamo letteralmente di tutti i colori, di troppi colori. Tutti convocati. Ma c'era una persona che non conosco ancora, che sembra essere uno steward. Ma prima gli ho dato una bastonata nel ginocchio, dopo ho preso la mia pistola, ho sparato una pallottola nel piede. A parte questo, niente. Andiamo questo pomeriggio per questo rincorso. Non posso dire nulla su questa vicenda. Emiliano Mondonico, buongiorno. Buongiorno, quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo della pistola è un uomo morto. Noi ti abbiamo chiamato principalmente per farti gli auguri per le feste di fine anno, perché con te cambio con grandissimo affetto. Pubblicamente. Senti, che si mangia a pranzo di Natale dalle tue parti? A casa Mondonico? Dalle mie parti si mangia soprattutto non quello che c'è scritto nel menù, ma quello che tu chiaramente chiedi. Io l'anno scorso ho chiesto dei pesciolini fritti, sì. ho chiesto un bollito, ho chiesto un primo fatto di lasagne, perché mia mamma va matta per le lasagne, e i gamberoni, perché una mia zia mangi gamberoni una volta all'anno, indovina tu quando. Sì, ma si festeggia 25, no? Si festeggia il 25 nel giorno, a pranzo. E anche perché dopo, fino al 25 dell'anno dopo, sei già sazio. E questo è determinante. No, però è bello perché ci si trova con tutta la famiglia, si fa la tombola, e poi dopo quelli meno giovani si incavolano perché vincono sempre quelli, sì. E allora bisogna fare in modo di fare la tombola dove vincono tutti, e perciò devi contare i nuclei familiari presenti, cugini, nipoti, sì. Fratelli, sorelle, compagnia bella. Cioè, si trucca. Tanto la partita, ti mando l'ufficio indagini. Ma sai, è bello perché lo fai a fine pranzo e i numeri si vedono poco. Sì. E dopo soprattutto ci sono quelli che, sai, le caselle che tiri giù e le copri il numero? Sì. Ecco che dopo 12, ce l'ho, 16, tombola, al secondo numero, come tombola? Arrivano ed è chiaro che se hanno ancora vinto, ah bravo, hai vinto, bene, questo c'è, però devo fare il giudice unico, Sì, è proprio giudizio unico e guai, e guai, e guai a chi vuole, vuole delle spiegazioni. O è così o è così. Ti mando l'uomo con la pistola, Rudy Garcia. E io ho il fucile. E tu hai il fucile. Mi spiace. Anzi, c'ho anche il fucile a sopra, con le canne una sopra l'altra. Si chiama il sovrapposto. Il sovrapposto. Ed è un fucile, certo, bellissimo, perché il primo tiro, quello che fai proprio senza mirare, è abbastanza corto. Il secondo, con la seconda canna, puoi anche far andare la selvaggina o chi di dovere, che lo prendi nei 50 metri, lo prendi nei 50 metri, perciò, lo prendi. E perciò, se non passa la metà campo, è già bella che è andato. Senti Emiliano, il francesino però ha imparato bene, ha imparato bene il francese, Garcia ha imparato bene come gira il fumo in Italia, no? Ma dai, ma è simpatico. Poi anche questo fatto Blink adesso che vuole, ma dai, ma meno male, così abbiamo qualcos'altro di cui parlare. Poi dopo spesso e volentieri mi sembra che gli Stuart vengono selezionati attraverso la corporatura, e perciò quelli gli Stuart proprio di guardia all'ingresso dei tunnel sono quelli che hanno la corporatura più grossa. Perciò non riesco a immaginare Garcia, che non mi sembra uno che così che abbia chissà quale fisico, possa dare uno schiaffo a uno Stuart con una corporatura grossa. Sai che si gira, prende un calcio nel culo che vai dritto negli spogliatoi senza neanche toccare terra. E perciò bisogna stare attenti. No, però è curioso, qualcosa lì è successo. In campo certamente volava di tutto. Magari Garcia è andato e gli ha detto: oh, ma sto coso lo tiri fuori o no? Cioè, succedono sempre tante cose. Negli spogliatoi, nel tunnel, cioè non pensare che ci siano tutti i chierichetti, e ci sia la messa di Natale. Diciamo che la guerriglia incomincia lì, nel sottopassaggio, e perciò non ti dico che cosa è volato. Io ho avuto un giocatore che è stato preso per le orecchie e gli è stato detto: occhio che oggi non esci dal campo con le tue gambe. Questo giocatore che è stato preso per le orecchie era dichiaratamente un picchiatore. Ti posso dire solo la squadra del Toro. Era un picchiatore, ma è stato preso per le orecchie da un altro che gli ha detto. E perciò in partita era bellissimo vedere proprio quello scontro. Sì, per niente programmato. Sì, Per niente programmato. Però al 90° finisce tutto, e amici come prima, terzo tempo e compagnia bella, cioè non è ma che... dimmi chi era. Vabbè, dai. Allora ti ho detto, picchiatore vero presunto del Toro. Non hai tante scelte, non ne hai neanche poche, perché diciamo che ne ho avute abbastanza. Inizia per B il cognome, diciamo che ci sei poco. Fuochino, fuoco. Ascolta, a proposito di Toro, mi chiedono di domandarti, Anselmo mi chiede, chiedi al mondo sul gioco del Toro, ti piace sto Torino o non ti piace? L'ultimo che hanno giocato a Empoli no, perché in generale in questa stagione forse erano stanchi, cioè in Coppa è più facile, cioè non dirlo a nessuno, ma in Coppa è più facile giocare che in campionato, perché le altre squadre non si attendono una squadra tatticamente ben messa, certo, che ti aspetta e poi riparte. In Coppa quelli che arrivano da altri paesi se la vengono a giocare a viso aperto, proprio sai come andare sul ring con Tyson, sì, e non cominciare a correre attorno al ring finché lui si stanca di rincorrerti, ma con Tyson vai e dice va bene, facciamo un pugno a testa, sì. Il primo cominci tu e gli dai un pugno, quello sogghigna e dopo tocca lui, sì. Ecco, in Europa è così. Noi invece che al moment ragioniamo, cioè prima di arrivare a darsi un pugno per uno ragioniamo, e allora li aspettiamo, li incantiamo, e poi dopo quando è il momento vai 1-0, palla al centro e amici come prima. Se hai quello che ti fa 1-0 il gioco può funzionare. Il Toro in questa stagione non l'ha ancora trovato quello che fa 1-0, infatti lo sta cercando sul mercato, però io continuo in Europa l'ha trovato spesso e volentieri. In campionato ti ho detto prima è più dura perché trovi quelli che sono furbi come te, no? E allora è chiaro, o hai quello che per conto suo ti risolve un po' tutto quanto, o altrimenti se deve interessare 4-5 persone, prima di metterle assieme viene sera. Sì, comunque col Toro io continuo a non capire perché la gran parte della tifoseria ce l'abbia con Cairo, perché mi sembra che insomma non puoi, sembra quasi che gli lo accusino di aver costruito una squadra che l'anno scorso funzionava bene, ha venduto i due giocatori più forti perché probabilmente al Torino deve fare così, anzi senza probabilmente, e adesso è al centro del mirino. Secondo me è abbastanza ingiusto, La rovina del calcio è l'indifferenza. Finché non c'è indifferenza, finché c'è contestazione, finché c'è, va benissimo. Il calcio continua a vivere, anzi vive sempre di più. E quando incomincia l'indifferenza, quando nessuno, adesso stavo dicendo una parolaccia, è lì che comincia a pensare: ma che cavolo sto facendo? E perciò va benissimo che ci siano quelli contenti, quelli scontenti, anche perché è gente che vive proprio per la squadra del cuore, non solo per il Toro, anche per le altre squadre. E tu sai che la fede per le squadre di calcio è più grande che la fede per una moglie. Stiamo parlando io e te, nessuno ci sente, per carità, neanche Conte. Però dimmi se sei d'accordo. Non si cambia la fine. Assolutamente, hai mai visto qualcuno di serio cambiare squadra? Mai nella vita. Qualcuno, no, ho visto cambiare squadra quelli che sono professionisti, ed è chiaro. Vabbè, ma questo che è evidente, cioè, delle bandiere, e anzi a me dà un fastidio pazzesco quando ci sono quelli che non esultano, no, perché ho segnato la mia squadra. No, mi danno un fastidio, guarda, che mi viene. Li multerei tutte e due, capisci? Non solo dove sei stato, ma anche dove sei. Bravissimo. E i tifosi che hai. No, ma io li multerei. Perché dove sei stato è quello dove sei, dico, no, amico, adesso tu giochi con me, come giusto io giochi anche a te. Bravissimo. Io non sopporto quella cosa lì e quando continuano a tirare la palla fuori dal campo perché c'è uno per terra. Sono due cose che mi fanno impazzire, mi mandano a male. Lì così è stato una legge ad personam, come dicono, cioè noi siamo maestri quando dobbiamo perdere un po' di tempo, soprattutto sulle ripartenze, sui contropiedi, siccome tutti hanno blaterato dietro al catenaccio e contropiede, adesso quando fai catenaccio e contropiede e perciò quando riparti è chiaro che per non essere chiamati catenacciari uno cade per terra, si butta fuori la palla, tutti si mettono a posto, così nessuno può dire che si fa catenaccio. Senti, ti chiedo ancora una cosa: Conte vuole fare gli stage per la nazionale a febbraio, io sto con la Juventus e con chi si ribella a questi diktat, mi sembra. L'altro giorno un mio collega diceva mi sembra un po' una disputa a chi ce l'ha più lungo. Ma in questo momento è chiaro che non ho ancora ben capito che cosa sia successo tra le due filosofie, che prima erano una filosofia sola, quella della Juve e quella di Conte. È chiaro che c'è stato un qualcosa che piano piano viene a galla con tutte queste situazioni di pro e di contro. Ma io, sai, andare in nazionale era il sogno di tutti quanti noi giocatori, e perciò il fatto di andare a fare uno stage in nazionale penso che sia come andare a giocare in nazionale. Poi non riesco a capire se in nazionale ti alleni in una certa maniera e nei club ti alleni in un'altra maniera. Non riesco a capire il fatto degli infortunati che non giocano al mercoledì in nazionale, giocano la domenica. Ma come, se sei infortunato mercoledì che non puoi giocare, è chiaro che non puoi giocare neanche domenica. Certo. Però ci sono tante filosofie che si devono mettere d'accordo. Però cerchiamo sempre di fare della nazionale la squadra più importante per quanto riguarda il singolo paese. Mondo, grazie, buon Natale, buon anno ancora. Domandano se alla tombola si vince la famosa seggiola che un dì alzasti al cielo. Sono tutti regali per persone anziane e perciò non posso regalare una seggiola. Al limite o la sedia a dondolo o se no la comoda. Sai cos'è la comoda? Sì, che lo so. Ecco, diciamo che spesso e volentieri c'è una sedia che si chiama comoda. Ma quella che alzasti un giorno ad Amsterdam, no, quella lì... Quella lì è una pieghevole. La pieghevole. Una pieghevole che si fa presto ad aprire e chiudere. Però, cioè, certo che alzare la comoda, sperando che non ci sia... A me che si alza la comoda e dentro c'è qualcosa che non dovrebbe esserci. Oh. Che figura di cacca. Ciao mondo. Ciao. Grazie, ciao, un abbraccio. Buona giornata a tutti, vi saluto. Ciao, ciao Emiliano. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24 è il numero verde. Chiamate, non si vince la sedia di Mondonico, ma possiamo parlare insieme se vi va. Per quanto riguarda la sedia, ci sono delle date FIFA che vanno rispettate, anche perché i giocatori non sono miei, i giocatori sono della Juventus, quindi questo è un confronto che dovrà essere fatto tra la Federcalcio e le società di calcio. Poi io sono molto contento quando i giocatori vanno in nazionale e fanno bene, anche perché la nazionale è un bene di tutti e credo che se la nazionale faccia bene, fa bene per se stessa ma soprattutto per l'intero movimento del calcio italiano. Tutti convocati. Per il Napoli parte Mertens, bocca mirante, ma non basta. Napoli 2 Parma 0 alla mezz'ora, il primo gol in campionato. Pietri esperto al cross in area, lo fanno passare Duvan Zapata, prova a girarsi in area, Duvan Zapata protegge col fisico, usa il sinistro e fa quello che gli riesce meglio. Gol ancora una volta di Duvan Zapata al minuto 19. Non lo so, dico buon Natale per tutti. Ma chi erano le squadre? Venite, chi erano le due squadre che la volevano? Non erano, le due che ho visto che ha scritto un giornale non erano questa. Non era. Ma ci dice qual era, no? Erano su ex squadre, no? Io sono, ho detto tante volte, nel calcio non è facile essere serio, io sono serio professionista. Se non mi dicono loro che posso dirlo, non lo dico. Una era una squadra e l'altra era una nazionale. La Russia. Grazie. Infatti qualcuno dice che vocifera che quella nazionale potesse essere la Russia in rotta con Capello. Visti i chiari di luna attuali lassù, non so quanto possa essere attraente in questo momento quella panchina. Per quanto riguarda poi altre voci chiacchiere, cioè in Inghilterra scrivono che Falcao potrebbe tornare in lizza per una maglia bianconera, cioè la Juventus potrebbe riprovarci per Falcao, che non lega con Van Gaal nella maniera più assoluta, quindi pare in uscita a Manchester United. È chiaro che è un'operazione enormemente costosa, però lì è di troppo. Scrivono anche che la permanenza di Balotelli al Liverpool sembra diventare ogni giorno più difficile, sappiamo dei recenti guai, la squalifica eccetera eccetera. Pare anche che Brendan Rodgers abbia detto ad alcuni amici non essere affatto convinto che Mario sia poi così bravo tecnicamente. Insomma, io ho l'impressione che davvero siano contati i giorni di permanenza di Balotelli al Liverpool, che poi sia a Sampdoria, che sia a Napoli, che sia in ritorno in Italia, che sia l'isola dei famosi, questo non lo so. Ciro Napoli, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. E tutti convocati come la nazionale, è un bene di tutti. Dunque, io sono napoletano e mentre vi ascoltavo stavo tra me e me pensando quanto è bello quando segna il Napoli al San Paolo, perché è un'esperienza straordinaria. Sì. E che fortuna che ha il Napoli ad avere un allenatore così serio. Sì, anche però se ieri sera a San Paolo c'erano quattro gatti. Lo so, però io non voglio essere estemporaneo, ma chiamavo per spezzare una lancia in favore di Tia, nel senso che il calcio, la gestione del calcio, tutta la gente vecchia che ruota intorno al calcio va cambiata. Quello che è successo a Garcia ha del vergognoso, assolutamente. Secondo me c'è anche qualcosa in più, c'è una violazione di tutte le norme, sia quelle sportive che quelle naturali che regolano la vita di tutti noi, che a questo punto da tifoso napoletano a me mi crea dei sospetti, per cui Garcia ha perfettamente ragione. Mi dispiace intervenire in ritardo rispetto ai temi che state trattando. No, ma non è un tema di assoluta attualità. La voce di Garcia, tra l'altro, è di un'ora fa, è la conferenza stampa che precede la partita con il Milan, quindi si è seduto lì, prima domanda. Allora, ci rispiega cosa è successo in quel tunnel, e lui ha dato quella risposta. E sa che cosa ironica. Mi dispiace, la saluto, perché vi occupate troppo il vostro tempo. È il silenzio dei giornalisti sportivi rispetto a questa vicenda così vergognosa. Cioè, se tutti avrebbero dovuto reagire, perché il segnale di quanto il nostro calcio è sporco, escludere un allenatore di una squadra così importante per due giornate così. Ah, la verità Ciro ha fatto molto rumore, cioè non è che è passato in cavalleria questa storia, se ne parla da giorni, noi in particolare ne abbiamo parlato forse anche troppo, devo dire la verità, però è una vicenda interessante, ma è una vicenda interessante perché mi interesserebbe capire i contorni della normativa, cioè nel senso, se, e poi chi ha preso la decisione, nome e cognome di chi ha preso la decisione, dove, quando, in base a quali, non ce lo dicono. Chi ha preso la decisione è il giudice sportivo. Oggi ci sarà il ricorso, poi ieri l'abbiamo sottolineato con le parole di Preziosi, ma la Roma sono amici, abbiamo buoni rapporti, vedremo di sistemare la storia. Si leggeva anche di questo steward pronto a ritrattare, però mi sembra, se la vicenda è davvero questa, cioè lo steward è andato dal procuratore, gli ha detto voglio far rilasciare una testimonianza spontanea, Garcia ha cercato di darmi uno schiaffo e nessuno ha visto e nessuno ha scritto, e sulla base di quella, esclusivamente di quella testimonianza, è stato squalificato due giornate, come minimo si crea un precedente che poi sarà molto difficile gestire. Io questo lo so per certo. Massimo, provincia di Varese, grazie Ciro. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno Genta, grazie per la convocazione. A lei. Io volevo parlare della notizia che è uscita sull'ennesimo buco nel bilancio del Milan, si parla di 70 milioni. A noi tifosi del Milan sembra una cosa un po' fuori dal mondo, visto che sono 4 anni che questa società non acquista un calciatore, che ha dimezzato rispetto a 4 anni fa il monte ingaggi quando c'era una squadra, adesso questa squadra non esiste più. Monte ingaggio è ancora piuttosto pesante. Quello Monte ingaggio è pesante, però se paragonato a quello della Juventus, che è ancora più alto di quello del Milan, a questo punto la Juventus tutti gli anni dovrebbe avere tipo 100 milioni di euro di debito, e invece non è così. Si è gestito in un'altra maniera. Certo, poi andiamo a scoprire che magari i debiti verso Fininvest diminuiscono e quelli verso le banche aumentano, e quindi uno fa 2 più 2 e alla fine fa sempre 4. Quindi sì, per noi, secondo me, e non solo secondo me, visto che io non sono un giornalista, quindi posso permettermi di dire determinate cose perché non rischio nessuna querela, il Milan è diventato il bancomat della famiglia Berlusconi, perché non si spiega, è inspiegabile. Una squadra che ha un fatturato così alto, sì, che tutti gli anni esce fuori la storia che mira a 60-70 milioni di debito. 1, 2, 3 Massimo, affronteremo il discorso con Marco Bellinazzo, che conosce tutte le pieghe di questa vicenda. Io sinceramente non so dire se lei ha ragione oppure ha torto. Certamente il Milan è una squadra ancora molto costosa dal punto di vista degli ingaggi. Giuseppe Sannino risegna le dimissioni dal Catania, Maurizio Pellegrino torna alla guida della prima squadra, quindi l'avventura di Sannino a Catania è finita, torna Pellegrino. Bet Corner, GR, poi torniamo con Paolo. Quote e pronostici. Sono 2 gli anticipi di Serie B in campo questa sera ad aprire il 19° turno della Serie Cadetta. Alle 19 la Virtus Lanciano attende la capolista Carpi. Vediamo assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria del Lanciano, è quotata a 2,60, X a 2,90. 2 invece con il successo del Carpi, quotato 3. Alle 21 interessante la sfida del Partenio tra Avellino e Bologna. L'1, la vittoria dei biancoverdi, è quotata a 2,65, X a 2,90. 2 invece con il successo Felsineo, quotato 2,95. Anticipa anche la Liga con il match delle 20:45 tra Celta Vigo e Almeria. 1, la vittoria del Celta, è quotata 1,53, X a 4. 2 invece, quotato 6,25. Alle 20:30 in Bundesliga il Mainz attende il Bayern Monaco. 1, quotato 13, X a 6. 2 invece, con il successo del Bayern, quotato 1,22. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domenica. Tutti convocati. Tutti convocati. Ancora per Vidal, libero di poter alzare la testa, mettere questo pallone in mezzo, Chiellini, Cragno ancora e poi Tevez, fortissimamente Tevez, dopo 3 minuti la Juve già in vantaggio con il 10° gol in campionato. Pallone proprio per Pereira, al limite Vidal che la piazza, che gol di Vidal al 15°. Irlo a cercare Llorente, pallone buono per Llorente in aria, Llorente prova adesso a girarsi, Llorente vede il Cagliari e poi segna Llorente. Guarda, gol di Cepitelli su calcio d'angolo e finisce il campionato bianconero. Questo segna, registrate. Cepitelli. È tutto registrato. Il gol di Cepitelli, il primo e il secondo su punizione di Conti. Grazie. Giocatelo 7 volte la posta. Ciao. Devo dire che Luca Telese ieri ci ha preso in pieno. 2-0 per il Cagliari, gol di Cepitelli e di Conti su punizione. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Molto gran Telese, tonico. Molto tonico Telese. No, volevo chiudere un attimo un discorso che ho lasciato in sospeso, l'ultimo ascoltatore che aveva chiamato, il bilancio del Milan, oggi è stato scritto da qualche parte, 70 milioni di buco. Ho assunto sommarie informazioni, in realtà il bilancio dell'anno precedente è stato chiuso con una perdita di 16 milioni e mezzo circa di euro e quest'anno, non partecipando alla Champions League, alla fine dovrebbe essere un meno 30 milioni, non meno 70, 30-35 certamente, non 70 come è stato detto e scritto. Chiudo la parentesi e voglio parlare con te del magico Cagliari che riesce a resuscitare perfino Tevez, Vidal e Llorente in un colpo solo. Questa è una grande impresa, nel senso che su Tevez in realtà insomma 13 gol stagionali non c'erano. Sì, ma non segnava da tanto, non segnava dalla partita del Parma. Un gol delle ultime, sì, perché da, però insomma questo c'è un po' di Zeman, se vuole, ma non è solo Zeman, dai, la Juve è scesa in campo ieri, Juve e Napoli sono scese in campo tutte e due bene, erano due partite alla portata, erano due testa coda del campionato, sono stati superati con una brillantezza molto incoraggiante per tutte e due. Sì, va detto, perché in questo momento se ti vuoi scegliere due avversari e ti becchi questo o il Cesena. Questo è evidentissimo, sono due squadre in questo momento tecnicamente retrocesse assieme al Cesena, quindi assolutamente nessuno discute, però sappiamo benissimo che le partite le puoi interpretare con un certo tipo di atteggiamento oppure con un altro, e devo dire che sia la Juve che il Napoli ieri hanno dato da subito la sensazione di voler essere protagonisti, di volerla chiudere subito, di fare le cose bene, che poi è un classico meccanismo, no? Quando tutte le volte parliamo di turnover, della gestione di vari appuntamenti, è chiaro che è un pensiero pesante, insomma la puoi affrontare aspettando, facendo tanto turnover, però poi magari rischi di complicarti la vita, oppure la puoi affrontare come hanno fatto Juve e Napoli ieri, semplificandotela subito, mettendola in discesa e poi riuscendo a gestire l'energia. Sì, leggo un tweet di Cardi, l'hai visto? No, di quando è? Di ora credo, di 5 minuti fa. Semplicemente per capire, mi fate piacere di dire a qualche scemo di Sport Mediaset che fa gli articoli su di me e mia moglie di non inventare cazzate, grazie. Sai chi è? Chi è? Ha detto chi è? Innocente sono, era a pranzo, innocente sono. Tu sei stato. No, io sono innocente. Adesso quindi a questo punto leggiamo che cosa sarà successo. Sai, la storia credo di molto di confine. Guarda, lascerai perdere l'ultima puntata della querel tra il signor Riccardi, il signor Maxi Lopez e la signora Vandanara. Che noia totale. Lascerei stare, per favore. Senti, totale. Garcia, più romanista di Totti, eh? Più romano di Totti è diventato. Garcia si è molto romanizzato. Senti quello che ha detto? Sì, ma insomma, voglio dire, qua stiamo parlando comunque di un allenatore, è stato eletto per la terza volta miglior allenatore di Francia, quindi stiamo parlando di un allenatore ovviamente che non viene dal testaccio e che è uno dei più promettenti allenatori che ci sono in giro per l'Europa, però insomma sicuramente ha preso alcune caratteristiche della città. Io ripeto, penso che rispetto all'anno scorso si sia un po' ribaltato l'orizzonte polemico della sfida tra Juve e Roma, nel senso che un anno fa c'era Conte che era un personaggio piuttosto forte nelle dichiarazioni, almeno in alcune circostanze, agghiacciante, viene da dire, insomma, faceva parte di questo tipo, utilizzava questi strumenti. E Garcia aveva un profilo più basso di quello di adesso. Mi pare che la stagione, un po' perché Allegri ha un carattere diverso da Conte e un po' perché la Roma comunque si è trovata subito nell'episodio di Juve-Roma, l'ha cavalcato in un certo modo, forse si sente di dover utilizzare questi strumenti per essere più competitiva. Sa, Garcia quest'anno è scatenato, sì. È scatenato, vabbè, ma insomma è una pura strategia mediatica. Io penso di sì, questo è chiaro, è da capire, no? Perché nessuno sta dicendo che Garcia non si sogna nemmeno di pensare, io credo, che lo Stewart sia stato addestrato dalla Juventus, però qualcuno in giro lo penserà. No, ma lì torniamo al discorso che facevamo ieri, che è un discorso di diritto, che è quello che mi interessa di più. Esatto, bravissimo, anche a me. Di potenziale emulazione. Cioè, se noi lasciamo questo margine, io non metto in discussione la parola dello Stewart, magari lo Stewart ha perfettamente ragione e magari è esattamente accaduto quello che dice lui. E si può anche pensare che in realtà Preziosi, quella cosa di cui parlavamo ieri, no? Il fatto di dire vabbè, ma è tutto a posto, adesso aiuteremo la Roma, alleggeriremo tutto, possa avere un interesse che non è un interesse di andare a sapere veramente come sono successe le cose, ma un interesse, diciamo, di comodo, perché comunque poi la Roma continuerà ad avere con proprietà Bertolacci, con proprietà certo, rapporti, gli frega Preziosi, onestamente. Quindi ci può anche pensare questo, però quello che mi interessa è l'aspetto giuridico. L'aspetto giuridico rischia di diventare allucinante, perché se una persona che è estranea a ciò che ha visto la Procura Federale ha questa possibilità, come dicevamo ieri, si crea un precedente molto difficile da gestire, Piero. Molto difficile da gestire dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista penale, ovviamente, se uno è stato menato, non è questo il caso, perché si parla di tentativo di schiaffo, sì. Ma voglio dire, qualsiasi cosa succede, quelli sono cittadini, privati cittadini. Se uno ha un problema, un contenzioso, va dal giudice ordinario. Mi sembra che sia un po' il percorso inverso rispetto a quello che dovrebbe essere naturale. Assolutamente. Infatti la cosa è molto grave, dai, la cosa è molto grave. Adesso aspettiamo il ricorso, credo non sia ancora arrivata la sentenza. No, oggi pomeriggio arriverà verso sera, io credo. Però sarebbe grave, secondo me. Sarebbe grave, ma non per la situazione dello specifico. Io non lo so quello che è successo, magari ha ragione lo Stewart. Sì, sì, ma non stiamo discutendo di quello. Non ero presente sul posto. Stiamo discutendo di grosso modo di diritto sportivo. Si tratta di capire. Sebastiano da Bari. Salve, dottor Genta. Buongiorno. Le volevo chiedere, ma glielo può spiegare lei ai romanisti, che eventualmente il signor Garcia, se la giustizia sportiva avesse qualcosa contro di lui, avrebbe già cominciato a squalificarlo già dall'utilizzo delle radioline. E penso che sia qualcosa che non si può fare, o sono io in errore? È stato ripetutamente multato, poi si può discutere su un altro. Continua a farlo, penso. Detto questo, se lei parcheggia di vetro di sosta, le danno 40 euro di multa e lei paga la multa, poi può decidere di continuare a parcheggiare di vetro di sosta. Cioè, lì al limite si può discutere su se la sanzione è proporzionata, è adeguata, congrua, eccetera. Ecco. Mm-hmm. Però insomma, non mi pare che su questa cosa qui ci sia stato un giudizio che ha visto chiaramente, visto che non si possono usare queste strategie, queste tecnologie, ha visto colpevole Garcia e ha pagato per questo. Quindi insomma, mi sembra risolta questa questione. Se continua a usarlo, continuerà a essere buttato, insomma. Sì, sì, certo, accetta la sanzione, e la Roma la paga e festa finita. Cioè non si può discutere della... hai fatto un parallelo perfetto. Non possiamo mettere in prigione chi mette la macchina in divieto di sosta, perché la legge non lo prevede. Quindi questo è quanto. Senti, ma come hai visto invece, abbiamo parlato della Juventus, ma il Napoli di ieri, lasciare fuori Zapata in questo momento è abbastanza difficile, eh? Non lo vedo benissimo in tandem con Higuain come caratteristiche, ma lasciarlo fuori in questo momento difficile. Ha la classica sindrome dell'attaccante che dove tocca fa bene, no? Sappiamo che la vita degli attaccanti, al di là del talento maggiore o minore, certamente Higuain ha più talento di Zapata, però insomma sappiamo che la vita degli attaccanti soprattutto è legata veramente a questioni di frazioni di secondo, di tempismo, di battiti, del fregare l'avversario veramente di una di un istante, potremmo dire che è la descrizione di un attimo, seguendo il tiro mancino. Ecco, in questo momento Zapata è in una grande condizione, è un attaccante che si sacrifica in assoluto, in generale, un attaccante che ha, dal punto di vista del minutaggio e del rapporto gol segnati, minuti giocati, ha sempre avuto ottimi numeri, anche l'anno scorso. Sì. Quest'anno la novità è che sta trovando in valore più assoluto minuti, più gol e più minuti, soprattutto in questa parte della stagione. Ma tu ce lo vedi con Higuain? Io penso che in alcune circostanze, magari più di emergenza, lui possa giocare con Higuain. È chiaro che sono due punte pesanti, è chiaro che uno dei due in quel tipo di modulo 4-2-3-1 si deve adattare, come è successo anche l'altra sera a San Siro del finale. E chiaramente Higuain è quello che certamente ha più le caratteristiche per potersi abbassare rispetto a Zapata, ma insomma in assoluto non è un brocco, ecco, c'è questo elemento qui, no? Cioè, che è definitivamente chiuso il dubbio, ecco. Il dubbio fosse un brocco, non lo è. Sì. No, non lo è, è un giocatore che può dare un suo contributo, che lo sta dando, che adesso ha questa illuminazione dall'alto improvvisamente che gli dà la possibilità di fare bene, di trovare il gol con una certa regolarità. Le gerarchie mi sembrano quelle, insomma, sinceramente. Le gerarchie mi sembrano quelle e il cambio più tradizionale è sempre Zapata per Higuain. Certo, la soluzione dei due in campo insieme è una soluzione estrema, limite, da ultimi minuti. Esatto. E che probabilmente i tifosi del Napoli non devono neanche augurarsi, perché vorrebbe dire essere in situazioni di difficoltà. Ieri il Napoli, esattamente come la Juve, bene, perché poi si può discutere, ovviamente il Parma è in una situazione drammatica, veramente drammatica. Oggi tra l'altro c'è questa ulteriore, nel pomeriggio, questa ulteriore conferenza stampa, chiarimento, incontro tra l'altro anche con i giocatori, vedremo se sapremo qualcosa di più, ma insomma la sensazione è che l'orizzonte sia ancora molto confuso. Dal punto di vista tecnico lo è ancora di più, quindi il Parma in casa è l'avversario più semplice da affrontare, però il Napoli spesso quest'anno, e non solo quest'anno, si incarta in queste partite banali. Il fatto che invece ieri l'abbia affrontata senza subire gol, sbloccandola subito, chiudendola in mezz'ora, è un buon segno, sicuro. Salutiamo l'uscita del terzo numero di 11, direttore Giuseppe De Bellis, buongiorno. Buongiorno a voi. La passione sulla carta. Tra l'altro. Cosa? Ho appena acquistato, come stai? Amico mio. Benissimo, molto bene, grazie. L'ho acquistato perché c'è la sua rubrica. C'è il suo editoriale, quindi l'hai twittato. Tra l'altro, no, adesso, fuori dalle battute, l'articolo di Pierluigi è una summa di quello che è accaduto nel 2014. Suggerisco di leggerlo perché è molto interessante, molto divertente. Che c'è in copertina? Chi c'è vestito da Babbo Natale? Pardo? No, non credo. No. C'è una vecchia conoscenza del calcio italiano e del calcio mondiale, direi, che è José Mourinho. Ah. Intervistato da Gary Neville, che questa è una delle cose più gustose del numero, perché Gary Neville nella sua nuova vita, oltre a fare far parte dello staff tecnico della nazionale inglese, è adesso un rispettato columnist del Daily Telegraph. È intervistato qualche tempo fa Mourinho e noi abbiamo comprato questa intervista e devo dire che ci sono un sacco di cose interessanti. Dimmene un paio. Ma allora, la cosa più interessante secondo me è la differenza di cui Mourinho parla del Chelsea, di questo Chelsea rispetto al Chelsea della sua prima tornata londinese. Un Chelsea con meno risorse economiche, paradossalmente, sì. Che però fa il record di utile della sua storia e che però secondo Mourinho è meno forte sulla carta ma potenzialmente più duraturo. Cioè lui dice quella squadra aveva molta più fame, questa ha più classe. E quindi lui vede, anche per la giovane età di molti dei giocatori, più futuro per questa squadra rispetto a quella. Sì, secondo che me sia. Questa è una lettura. Sì, che sia finita l'era, la prima era Abramovic, quella in cui voglio questo, me lo vado a prendere, quanto viene, veniva a Milano a fare lo shopping. Ci ricordiamo bene, non trattava sul prezzo, ditemi quanto viene questo giocatore che me lo porto a casa. La realtà è questa e il Chelsea di quest'anno a me sembra davvero una macchina da guerra, Pardo. Sì, è una macchina. rischio la guerra, anche se devo dire che nelle ultime giornate si è assistito a un recupero progressivo del Manchester City, perché il Chelsea che all'inizio era perfetto, a qualche punto l'ha buttato via. C'è questa famosa maledizione di Newcastle della carriera di Mourinho che ha colpito anche quest'anno. Insomma, mi sembra che il Chelsea mi sembra la squadra più forte, più strutturata e più solida. Il City mi sembra la prima outsider, con un grande ritorno del Manchester United che però probabilmente si è svegliato troppo tardi, e poi con nient'altro. Insomma, il Chelsea mi sembra la grande favorita del titolo. Mourinho, al di là di tutto, insomma, ieri mi sono rimbattuto in alcuni spezzoni della sua bis polemica di qualche anno fa in Italia. Al di là di tutto, arrivare un personaggio straordinario. Quando qualcuno dice che Garcia si sta morignizzando è perché evidentemente si sta prendendo alcuni atteggiamenti che sono tipici degli allenatori che non allenano solo in campo ma allenano fuori, i giornalisti, l'opinione pubblica. Gli allenatori delle altre squadre, spesso anche quasi insultandoli, come ha fatto Mourinho della sua carriera a proposito per esempio di Ranieri o di Wenger. Gli stessi giocatori che attraverso tutta una serie di suggestioni che arrivano dalla stampa vengono evidentemente stimolati. È la modernità, è proprio la modernità, è l'allenatore all'inglese. Poi devi avere anche la capacità di reggere questo tipo di ruolo, perché certo, non è mica certo facile sederti lì e tutte le volte picchiare duro. In inglese si dice manager è to manage, quindi maneggiare, colui che maneggia. Uh-huh. E l'allenatore non è soltanto appunto un trainer, cioè uno che allena, ma è uno che gestisce l'aspetto tecnico, l'aspetto psicologico, l'aspetto mediatico. Ed è chiaro che più il calcio cresce di importanza, più diventa business, fenomeno sociale, di comunicazione, e più chiaramente l'allenatore ha questo tipo di ruolo. Sì, e gli allenatori vincenti, percepiti e amati dai giovani calciatori, sono soprattutto questi. Sì, quelli che vengono conosciuti. Poi tutti vogliono giocare per un allenatore che ti protegge, no? Per un allenatore che si prende un sacco di responsabilità e se ne prende lui e fa da paravento quando serve, da parafulmine quando serve, eccetera. La vedi così anche tu, Giuseppe De Bellis, a proposito di Garcia? O stai esagerando? No, secondo me non si sta esagerando. Devo dire che esagerando in questo momento? Allora, secondo me no, perché cerca di compensare esattamente come ha fatto in alcune situazioni Mourinho, cerca di compensare qualche calo della squadra con delle punte, diciamo, di individualismo suo. Che secondo me sono però, come diceva Pierluigi, a protezione di tutto il gruppo. Ovviamente sappiamo che Roma è una città complicata, la personalità di un allenatore può coprire spesso alcune fasi che a Roma possono essere più frequenti rispetto ad altre città. Io poi sulla questione di Genova ho molti dubbi, ma sono personali, cioè secondo me lì si è aperto un precedente potenzialmente devastante, quindi sì. Però ovviamente non c'era quasi nessuno lì, però insomma vediamo come va a finire, perché è una situazione molto complicata. Sì, io ho la sensazione che oggi pomeriggio verrà messa una sorta di toppa politica e poi... No, ma di buon senso, guarda, se ha ragione De Bellis, se non ho capito male, se non ho interpretato male, ritorno al discorso di prima, cioè se Garcia viene squalificato, non è soltanto squalificato l'allenatore, si crea un precedente che può valere sempre, perché un domani uno può dire che Allegri mi ha messo le mani addosso e se ne... Cioè, Allegri o Terzo o chi vuoi tu, o Bangal, per carità. Quindi non è un discorso di Roma-Juve, qui se c'è un riscontro oggettivo, se la Procura Federale vede qualcosa, ma allora per carità, allora gli devono dare 5 giornate a Garcia. Certo. Ma se questa cosa non succede, e non è successa, diventa un precedente di una pericolosità enorme. Diverso è, chiaramente, lo ribadisco, la giustizia ordinaria, cioè lo steward, se è stato realmente colpito oppure se è stato minacciato, non lo so, può andare dai magistrati, può sporgere denuncia. E poi eventualmente si va in sede sportiva, no? Poi eventualmente si può andare in sede sportiva. Certo. Sì, sì, sì. Giuseppe De Bellis, il Bari per chiudere? La Bari, bravo Pierluigi, la Bari. Noi prendiamo tutto, maschile, femminile, non abbiamo queste, lo chiamiamo indifferentemente o la Bari o il Bari. E la Bari ci speriamo, nel senso che dopo la stagione incredibile dell'anno scorso, quest'anno si fa un po' fatica, però adesso dirò una banalità che però è anche una verità, è un campionato maledetto, la Serie B è gennaio, cioè adesso ci avviciniamo a gennaio dove c'è la pausa lunghissima, è ancora di fatto l'inizio del campionato, perché sì, sì, negli ultimi anni tutti i campionati sono decisi molto più avanti, quindi è una terrificante maratona, la Serie B è una maratona terrificante in cui devi arrivare agli ultimi due mesi ancora in scia ai primi, insomma, poi da lì vedi cosa succede, ma è una cosa tremenda. Grazie Giuseppe, grazie direttore. Ieri grazie a voi, 15 anni dal gol di Cassano contro l'Inter, siamo un po' malinconico da questo punto di vista il tipo di scenario del Parma. Cassano, cioè, io credo, ma ne parliamo subito dopo la borsa. Credo che la situazione del Parma è ormai ingestibile. Non ho idea di cosa verrà detto in una conferenza stampa di oggi che si annuncia su toni ridicoli. Credo che il Parma verrà anche spogliato dal prossimo mercato, Cassano compreso. Questo lo dico io, quello che dice Pardo non lo so, lo scopriamo dopo la borsa. Ascoltatemi bene. Più ci daranno fastidio, più lotteremo. Più sarà difficile, più attaccheremo. Adesso un capitolo chiuso. Per oggi, grazie. Tutti convocati. Sempre dico che la prossima partita è la più importante, in questo caso giocare contro la Juve, la Supercoppa è un titolo, sarà la partita più importante almeno del 2014 a questo punto. Ora pensiamo a quella di Doha, poi dopo se a Doha è tutto che cerca di vincere, e poi dopo vedremo, se abbiamo un po' di ammoniti. No, ecco, quando dopo finita la partita di Doha andiamo in vacanza e poi dopo con quelli che ho a disposizione giocheremo contro l'Inter. Sulla Supercoppa cosa hanno detto? Cosa succederà? È un problema che non mi riguarda perché io ho già detto che la Supercoppa non la giocherò mai più in vita mia. Riflessi di Supercoppa Juventus già a Doha. Pierluigi? Colò? Ho convocato Piantaneda perché sai cosa ha fatto tutto il giorno? Sei mai stato a Doha? No, a Doha no. Che tra l'altro Doha è la capitale del Qatar, perché Doha, uno dice Doha, Emirati Arabi, non si capisce mai la verità. Comunque ha passato tutto il giorno a cercare di prenotare una stanza in uno dei due hotel in cui soggiorneranno Juventus e Napoli. Sa tutto di questa vicenda. Pensa un po' che cosa sì, non fatto so perché non so se è stata si è impallinato con sta roba qui. Non so se è stata la cena di ieri sera che mi ha fatto svegliare male. Non lo so, male o bene, perché ho passato tutta la mattina a cercare e a spulciare le stanze dei due hotel. Forse perché ho letto che la Juve spenderà la metà a stanza di quello che spende il Napoli, quindi ce li hai i soldi della De Laurentiis, ce li hai i soldi. Sì, ma infatti ha organizzato una grande trasferta, sta all'hotel The Torch. La torcia. La torcia. Alto 300 metri, spunta dal deserto e domina questo centro sportivo dove hanno, aspetta, fammi contare. Hanno un centro sportivo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campi a 11 all'aperto, più un mega dome tipo il Palalido che stanno costruendo qui a 200 metri da noi, simile, con un campo coperto a 11. Campo coperto a 11. Uh-huh. Ah, cioè, vabbè, insomma. Siamo al top. E quindi i giocatori del Napoli dall'alto del The Torch vedono invece l'hotel della Juventus, che sembra una costruzione in stile vittoriana, vabbè, si sa che lì sono un po' così, che insomma sta in questo mega centro sportivo, una roba pazzesca. Guardatevi le foto. Comunque, Grand ho provato a prenotare. Heritage, ce l'hai fatta? No, non ce l'ho fatta. Comunque, 264 euro a notte, neanche tanto, Pierre, la stanza base, king vogliamo bed. Andare a Doha? Vogliamo andare a Doha? Ma noi vogliamo andare a Doha? Everybody guess dove? Comunque, in questa. questa mia peregrinazione internettiana del mattino ho scoperto che nelle stanze del Napoli ci sono dei pannelli luminosi cangianti di 12 colori, tipo l'Allianz Arena, no? Sai che cambia colore a seconda delle partite, che dovrebbero acquietare il sorgiorno di Higuain, che è agitato, Benitez che è teso, e tutti i ragazzi. Baraccone della fiera, vabbè ho capito. Va bene. È il baraccone. Comunque, della fiera. Il Napoli, i soldi ce li ha. No, ma sì, certo, sto scherzando, logico. No, ma no, è uno dei bilanci più sani e più saldi che ci sono in giro per il calcio italiano, insomma. Sì. Secondo me, ribadisco, è stato fatto un errore l'estate scorsa di sottovalutazione del preliminare, un errore che Napoli ha pagato veramente a carissimo prezzo dal punto di vista tecnico e poi quindi anche dal punto di vista economico, perché è ovvio che nel momento nel quale salta la Champions League saltano anche quegli introiti, quindi poi alla fine c'è un boomerang anche dal punto di vista economico, però insomma che il Napoli abbia le risorse per continuare a investire io non ho dubbi, e penso che la sconfitta di Milano abbia aumentato la voglia di De Laurentiis di investire. Sì, sì, se lo penso anch'io. Invece, prima di Tony da Teramo, Gianluca da Napoli proprio, 800 24 00 24 sono i nostri convocati. Parlavamo del Parma, invece il bilancio peggiore forse della Serie A. Credi che il Parma verrà smontato sul mercato di gennaio? Beh, molto dipende da quello che dovremmo sapere oggi pomeriggio. Insomma, che vuoi sapere oggi pomeriggio, Pier? Che ti dicano? Cioè, questi qui, la cessione è stata annunciata, ma non c'è nulla di firmato, non c'è un assegno. Non c'è, che vuoi che però, dicano? Vediamo. È chiaro, al momento è un giallo, e in questo momento la sensazione è che si tratti di una vicenda quasi irrisolvibile, no? Cioè che la svolta positiva non sia arrivata finora, però so, vediamo oggi pomeriggio, magari invece qualcosa cambia. È difficile, sono d'accordo con te, è difficile, non ci sono dubbi. Chiaramente se non cambia niente, allora poi siamo di fronte a un mercato che deve essere inevitabile. Qua c'è un casino a Casa Pardo. Oh! Che cosa incredibile! Che c'è? Passaci qualcuno. Ti potrei passare Leo, Fausta, non lo so. Il signor Leo. La radio di Confindustria, no, ma, cioè, venerdì pomeriggio, un programma serio. Operosa. Ma che idea dà la famiglia Pardo? La famiglia è gente che sta qua a pranzo alle 3:30 del pomeriggio. Ma che hai già iniziato i pranzi di Natale al 20, mamma al 19? Mi dice, mamma mi guarda e mi dice, ma che stai in diretta? Mamma che è la più grande ascoltatrice di Radio 24. Facciamo un test, come si chiama la Carbone di nome? Niente, non lo sa, è emozionante. Come? Nicoletta Carbone. Ecco. No, vabbè, comunque, scusa. Nicoletta Carbone, sei in diretta, Fausta, sì, Nicoletta Carbone, sì. Sente tutti i consigli medici, ecco, infatti. Ma per grande. Questo mi dice sempre devi dimagrire, da quando sente la Carbone tutti i giorni. È solo la Carbone che te lo dice, Pier, Le parlo io, se lo dice mamma. Perché arrivo qua, capito, a un certo punto oggi ha fatto chi vuole altra pasta, io ho alzato il dito, ha fatto no, tu no. Allora voglio dire, non è democratico, no? Allora vai a personam, dici Leo vuoi altra pasta? Scusate, il momento Casapianello, dicevamo. Il Parma è chiaro che se non trova un equilibrio verrà saccheggiato a gennaio, non ci sono dubbi, e da un certo punto di vista è chiaro che anche delle cessioni a zero per una società che ha così tanti problemi economici rappresentano un sollievo, perché comunque sono ingaggi il costo che paghi, degli stipendi, certo. Però il rischio è quello di fare una seconda parte della stagione assolutamente malinconica, arrivare insomma drammaticamente alla retrocessione e dover ripartire da zero. Non lo so, io aspettiamo ancora. Il Parma comunque ha un suo marchio, una sua storia, purtroppo ci sono dei debiti che credo siano pesanti. Comunque ho un titolo, Pardo 2 punti, aperte le virgolette, il Parma gennaio verrà saccheggiato, no, quindi no, Cassano no, va... No, sto scherzando. Sto scherzando. Quindi Cassano andrà al Torino. Ma lo sappiamo da mesi che Cassano va al Torino. A proposito, poi cambiamo lavoro, andiamo a fare gli intermediari. Se veramente Cassano va al Torino vuol dire proprio che siamo... O gli indovini. Esatto. Tony Teramo, buongiorno. Buongiorno, io chiamo per contrastare un po' quello che avete detto prima su Garcia, io lo chiamo così perché mi piace chiamarlo Garcia. Come il sergente. Esatto, somiglia parecchio come personaggio, uno che le prendeva da destra e da sinistra, cioè era sempre colpa di qualcun altro. No, il discorso è la multa che uno prende e poi continua a metterla in divieto di sosta è ben diversa, perché nel codice civile non esiste la reiterazione del reato, cioè uno continua a prendere la multa e la paga. Nel codice di giustizia sportivo, io ho fatto l'arbitro e parlo con cognizione di causa, esiste anche la reiterazione del comportamento antisportivo, esiste in campo, esiste sul terreno di gioco, esiste per tutti i tesserati. Quando un giocatore fa un fallo che non rientra nella casistica dei falli d'ammonizione, se lo rifà tre volte consecutive viene ammonito per la reiterazione del comportamento antisportivo. Il signor Garcia dovrebbe essere squalificato. Io ricordo, perché è una cosa che sfugge a tanti, no? Che la Juventus è stata mandata in Serie B per più violazioni dell'articolo 6, che non prevede la retrocessione in Serie B, solo la violazione dell'articolo 1 sì. prevederebbe la retrocessione. Sì. È stato detto che più violazioni dell'articolo 6 facevano una violazione dell'articolo 1. Ma quindi la colpa è del giudice sportivo. Esatto, esatto, andrebbe squalificato. Quindi il discorso che faceva il telespettatore precedente sul fatto che nessuno ce l'ha con Garcia, perché se la giustizia sportiva volesse applicare alla lettera il regolamento, il signor Garcia verrebbe squalificato già da tempo, perché la sua è una provocazione, quella di continuare a usare un mezzo che non è permesso, che gli permettono di farlo per evitare ulteriori polemiche, perché il signor Garcia ha capito bene come funziona in Italia, no? D'altronde anche Conte qualche anno fa, dopo l'ennesimo rigore non dato allo scadere, fece quella sfuriata perché sapeva la reazione che avrebbe causato al successivo episodio, cioè stare un pochino più allora, attenti. Così è molto grave, sarebbe molto grave, perché vorrebbe dire che c'è un giudice sportivo che non osserva la lettera della legge. Questo vorrebbe dire questa cosa qua. Cioè, se davvero la reiterazione delle telefonate dalla tribuna alla panchina, eccetera, eccetera, comportassero automaticamente la squalifica di Garcia e il magistrato, il giudice sportivo se ne infischia e continua a multarlo, allora viola la legge, quindi è una violazione. Se così è si configura una violazione della legge molto grave, sarebbe molto grave da parte del giudice sportivo. Io non sono così sicuro che sia così, però vedremo di appurare. 1, 2, 3 Tutti convocati. 1, 2, 3 Ma sarà davvero così, Pierluigi? Cosa? No, che reiterazione del reato di telefonata dovrebbe comportare squalifica. Poi siamo sicuri che se così fosse, dall'altra parte non farebbero un casino d'inferno? Sì, ma infatti anche ho dei dubbi su questo, scusate, ma sono... siamo ignoranti, insomma, però insomma sicuramente farebbero casino su questa questione qui. Poi non è che in tutte le partite ci sia stato questo utilizzo di questo strumento, insomma. Fra l'altro ricorderete la prima volta che è successo in occasione di Livorno-Roma, prima giornata dell'anno scorso, la candida, insomma, come candidamente si difendeva Garcia dicendo ma io non pensavo che fosse un problema, insomma. In effetti, in un mondo ipertecnologico come questo può sembrare addirittura un controsenso non poter utilizzare una tecnologia di questo tipo, però evidentemente queste sono le regole. Filippo, provincia di Viterbo. Buongiorno. Buonasera. Senta, io vorrei tornare un secondo a quella che era l'intervista di Mourinho citata poc'anzi. Sì. Sembra quasi di questi tempi che il Chelsea sia comunque una squadra, diciamo, con un capitale non così sproporzionato. In realtà quello che personalmente a me fa paura è il fatto che adesso esistono delle superpotenze come possono essere il Paris Saint Germain, il Manchester City, appunto, che fanno quasi sembrare il Chelsea una squadra di barboni. Cioè, questa è una cosa che a me fa paura. Come possiamo pensare che le squadre italiane possano veramente competere con questi mostri, tra virgolette? Vorrei sapere il vostro parere su questo. Sì, che poi tra l'altro si sente e si legge oggi che anche le sanzioni dell'UEFA nei confronti del Paris Saint-Germain per la storia del prefinanziario potrebbero essere ammorbidite ulteriormente, eccetera, eccetera, facendo, se così fosse, tutto il castello del fair play finanziario sarebbe come quegli hotel di Doha, cioè un po' una pagliacciata. Detto questo, nessuno ha detto che il Chelsea è una squadra di barboni, è una squadra estremamente potente dal punto di vista economico, non viene però più gestita come era in passato, quando c'è stato un momento in cui questi volevano un giocatore, se non andavano a prendere punte basta. Adesso è un po' diverso. Sì, assolutamente, è profondamente diverso. E vabbè, siamo, il principio è un principio inquietante, l'abbiamo detto mille volte, ed è la progressiva divaricazione fra la forza delle grandissime squadre e quella delle squadre grandi e medie. E in questo chiaramente la Champions League, con il suo meccanismo di accelerazione degli introiti per le squadre che vincono e che quindi continuano a ricevere risorse, creano questo circolo virtuoso e continuano a vincere, è stato veramente il grande acceleratore degli ultimi anni. E a me non piace, dico la verità, questa cosa non mi piace molto. C'è in America il meccanismo del draft, che è un meccanismo che invece va in maniera anticiclica per cercare di riequilibrare il sistema, perché lì c'è l'idea che l'equilibrio del sistema sia un valore che contribuisce, sì, certo, allo spettacolo. Perché non ci sono le retrocessioni, però c'è un sistema chiuso. C'è un sistema chiuso, non ci sono le retrocessioni e c'è questo tipo di situazione. È anche vero che poi si creano delle situazioni, ma anche lì, molto bizzarre. Ad esempio Magic Johnson che dice: spero che i miei Lakers da qui alla fine dell'anno non vincano più neanche una partita, in modo poi da poter scegliere per primi. Quindi sì, si creano dei meccanismi che sarebbero, io credo, insopportabili per noi, no? Sì, però guarda, è una cosa che sta andando di moda quest'anno. Adesso tu sei più esperto di NBA di me. Sicuramente, però è andato di moda quest'anno perché c'è stata la Philadelphia che ci ha messo credo 15 partite prima di iniziare una, e questo sospetto è cominciato a entrare nella testa delle persone. È chiaro, la legge ha trovato l'inganno, no? Nel senso che comunque alla fine, se ti rendi conto che tanto la stagione non ti può dare nulla, allora risparmi energie. Sì, è un po' anche secondo me un ragionamento strano che qualcuno faceva qualche anno fa a proposito dell'Europa League, no? C'è sempre qualcuno, secondo me sbagliando, che ti diceva: piuttosto che andare in Europa League, arrivare quinti o sesti, è meglio arrivare settimi o ottavi, così poi sei, l'anno dopo hai il vantaggio di non giocare le coppe europee, è una stagione più leggera. A me lo sport, nel momento nel quale diventa invece che sfida per vincere, motivazione massima, comincia a diventare calcolo, ragionamento e addirittura convenienza di una sconfitta, non piace più. Quindi sì, secondo me è un segno di poca mentalità questo. Angelo da Sassari, poi facciamo la schedina. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie della convocazione innanzitutto e complimenti per il programma. Grazie. Volevo solamente capire come mai si andava a Doha a giocare la Supercoppa italiana per avere un premio di poco più di 1 milione di euro, mentre magari facendo una partita in Italia in un campo, vedi San Siro, si potevano magari recuperare dei soldi di incasso che potevano essere superiori a questa cifra. Ma io non penso che si accontenterà sia una storia da 1 milione di euro. No, sì, no, l'introito a testa per le squadre è 1.250.000 euro, che sì, è di poco inferiore a quello che prendevano le squadre che andavano a giocarsela a Pechino. Sono andate 3 volte, cioè ci sono state 3 supercoppe italiane. Credo ci sia dell'altro, però. Credo di sì. Credo ci sia però dell'altro, non credo che sia limitato a questo gettone. Però la cosa curiosa è che giocheranno in uno stadio minuscolo, da cioè 15.000 posti, quindi è logico che c'è sicuramente dell'altro, perché è logico che hai San Siro 2 passi e non la fai. Sarebbe stato anche carino fare Juve-Napoli a San Siro, uno stadio che non è di nessuna delle 2 squadre. Ragazzi, sono... questo, c'è anche un discorso di strategia. Sì, allora, sì, mi ricordo qualche mese fa, quando ci fu la discussione sui diritti televisivi, no? C'era il discorso, ma le società avranno un loro interesse complessivo che magari non è soltanto tattico, cioè non è soltanto se guadagno 2 milioni e 4 o 2 milioni e mezzo, ma è anche un discorso di prospettiva. Lo dico perché lì veniva fatto il discorso del monopolio. Magari le società di calcio, io, mia vecchia esperienza da persona che faceva marketing in una multinazionale una vita fa, magari io preferisco avere 100.000 euro in meno, ma avere un mercato con dei soggetti che si fanno la guerra fra di loro e che quando vanno a fare la prossima asta continueranno a lottare e alzeranno il prezzo. E giustamente, vai a Doha perché è un ponte ecco, per, cioè, è un ponte economico, commerciale, ma non solo per il calcio. Ci sono delle logiche che vanno oltre quel 1.250.000 euro. 90 secondi, schedina. 90 secondi, schedina. Sì. Sassuolo Cesena 1. Piantanida. Ah, pure io vado. Sì, vai, veloce. 2. Roma Milan. No, Piantanida via, licenziato. Ma questo lo vediamo lunedì, amico mio. Roma Milan. Roma Milan 1. X. Verona Chievo derby 12:30 di domenica. Bello. 2. 1. Atalanta Palermo. Atalanta Palermo 1. 1. Fiorentina Empoli. 1. X. Sampdoria Udinese. 1. 1. Difficile ma 1. Torino-Genoa. Torino-Genoa X. X, sono amici. E finisce erano amici. Finisce la giornata con Inter-Lazio domenica sera. Inter-Lazio. Che bella partita Inter-Lazio. A me piace da matti. Over. Non over. Si può, lo sai che non si può. Cioè, dai. No, Inter-Lazio 1-1-1-1-1. Io non so proprio Inter-Lazio, non lo so. Che devo dire? Non lo so. Scrivo, poi, non lo so. Si parte tra poco. Inizia la sfida, ma è solo gioco. Ciao, Pierre. Salutaci la signora Fausta. I moderni miti di Casapardo, Leo, Fausta. La signorina Carbone, con i suoi consigli. Ci sentiamo. Domani facciamo una puntata sull'obesità e quanto può essere utile sul buon umore delle persone. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Pierluigi Pardo, ci vediamo domenica qui dalle 5 alle 7, ovviamente con Giovanni Capuano. Vado a Franco... parto. Vai, ciao. Ciao, grazie a Franco Piantaneda, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buonamici in redazione. Ci sentiamo domenica e poi lunedì alle 14. White Peter, questo è il lancio mortale. Basta colpire l'avversario per eliminarlo. Prendere la palla non vale niente. Entrambi i piedi devono rimanere sempre all'interno del triangolo. Potete lanciare in qualsiasi momento dopo il mio via. Capito? Perfetto, che sia uno scontro leale. Buona fortuna, signori. Giocatori, in posizione! Il lancio mortale è l'essenza del gioco, signori. Se tiri troppo presto, sei senza difesa. Se tiri troppo tardi, sei eliminato. Dilemma, il suo nome è Dodgeball. Questo sport non forma il carattere, lo rivela. Porca vacca, Cotton, porca vacca!